Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Ecco, non solo gli ascoltatori non mi vogliono perché ho mancato questa previsione di borsa, ancora una volta oggi ricominciamo con le prese in giro che ci stanno, naturalmente ce le prendiamo. Spero anche che gli ascoltatori colgano lo spirito con la quale qualche volta in qualche modo commentiamo gli eventi finanziari. Qua anche con la sigla non ci siamo, eppure ci sono io oggi. Vi dovete accontentare di questa ultima giornata di settimana in mia compagnia per Focus Economia, per raccontarvi la giornata economico-finanziaria. Allora, sì, lo chiamano anche in gergo finanziario il rimbalzo del gatto morto, più 0,5% per il FTSE MIB a Piazza Affari, quindi saluto Fabio da Firenze che me lo ricorda naturalmente, così come Valentino che lo stesso mi prende in giro e insomma dice allora queste ricoperture oggi sono proprio microscopiche. Peraltro, però poi lo commenteremo con Eleonora Micheli di Radio Cori Il Sole 24 Ore, quello che è curioso è quello che è l'atteggiamento degli investitori su certi titoli, perché vi faccio un esempio: ieri, subito dopo la diffusione della trimestrale della Popolare dell'Emilia Romagna, il titolo è tracollato dell'11%. Oggi quanto guadagna? L'11%. La trimestrale è sempre quella, quindi non si capisce oggi che cosa possa essere successo al punto da riportare nella medesima misura appunto della perdita di ieri il titolo, praticamente che ha recuperato tutto quello che ha perso ieri. La Popolare dell'Emilia Romagna ha portato con sé oggi anche la Pop Milano, più 6,51%. Bene, tanti altri titoli, invece bocciatura sonora per i conti di Toz, meno 7,63%, e per quelli di Monte dei Paschi, meno 7,43%. Le altre borse europee vanno male, sono leggermente negative, sono andate un po' peggio per la verità. Milano è arrivata a guadagnare quasi 1,5 punti, per poi riperdere tutto nel pomeriggio, ma niente da fare. Probabilmente, insomma, molti investitori in attesa di capire un po' quale sarà l'atteggiamento della comunità finanziaria mondiale nei confronti dell'Italia nelle prossime settimane, hanno preferito, come dire, vendere e andarsene in vacanza abbastanza sguarniti di Italia. Wall Street senza infamia e senza lode, più 0,3% sul Dow Jones e più 0,26% sul Nasdaq. Vi racconteremo poi il dettaglio della seduta di Piazza Affari come tutte le sere, gli altri temi di cui parleremo, un commento un po' di questa settimana di Matteo Renzi e delle iniziative economiche. Oggi c'è stato il via libera anche al provvedimento competitività, a prescindere dal via libera al nuovo Senato e le riforme costituzionali. Ci concentreremo sui provvedimenti per l'economia, perché in molti, come sapete, hanno durissimamente contestato Renzi questa settimana. Dopo la diffusione del dato sul PIL del secondo trimestre, un nuovo segno meno che definisce a questo punto la recessione tecnica per il nostro paese, è lì che Renzi deve puntare. Ormai tutta la comunità economica punta il dito contro il Premier e gli dice chiaramente la strada che deve prendere per i prossimi mesi. Sì, bene, le riforme costituzionali, ma non erano l'emergenza del paese. L'emergenza a questo punto è l'economia, il Sole 24 Ore lo dice da giorni. Vedremo se già intanto con questo pacchetto competitività sarà sufficiente per far ripartire qualcosa a partire da settembre. Poi lo commenteremo tutto questo e tutta la settimana appunto di Renzi e delle notizie economiche con Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Chiaramente poi con Gianni Dragoni del Sole 24 Ore faremo un punto su Alitalia. Non era del tutto scontato che oggi avvenisse la firma della sigla appunto dell'accordo fra Alitalia ed Etihad. Etihad sarà il 49% della compagnia di bandiera, quindi nasce questo nuovo vettore. Vedremo se avremo anche una radicale trasformazione dei mezzi che partiranno appunto dal nostro paese, se si trasformeranno anche dal punto di vista estetico. Proprio poco fa si è conclusa la conferenza stampa congiunta tra James Hogan, numero uno di Etihad, Gabriele Del Torchio, numero uno di Alitalia, chairman di CAI, Roberto Colaninno. 349-238-6666, il numero che conoscete molto bene appunto per commentare, oltre che le questioni di borsa, e prendere di mira me anche tutte le altre notizie appunto che hanno riguardato oggi la giornata finanziaria. Vabbè, BPR ieri ha perso il 13%, santo cielo, come siete veramente permalosi. Andiamo alle notizie in breve. lo so che meno 11 di ieri non equivale al più 11 di oggi, però quello che io volevo intendere prima è che se una giornata è totalmente storta per un titolo e il giorno dopo rimbalza in maniera vistosa, la società è sempre quella, ma perché dovete fare le pulci in questo modo ad ogni lettera che esce dalle nostre bocche? Mamma mia, sarà l'estate. Comunque l'oro, quotazioni in rialzo sui mercati asiatici, evidentemente spinte dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in Ucraina, in Iraq. Il lingotto oggi con consegna immediata guadagna $1,300 l'oncia, il petrolio invece ha ripreso un po' a fibrillare dopo le notizie appunto arrivate dall'Iraq, $97,64 al barile. Naturalmente le notizie si riferiscono ai raid americani contro le postazioni dell'ISIS in Iraq, che sono partite molto presto questa mattina a Washington. E comunque la produzione petrolifera OPEC ha toccato in luglio i massimi degli ultimi 5 mesi grazie alla riapertura dei campi di estrazione dei porti in Libia. La notizia è stata diffusa proprio dall'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori, e i paesi che fanno parte di questa organizzazione hanno prodotto in totale quasi 30 milioni di barili al giorno, ovvero 167.000 barili al giorno in più rispetto al mese di giugno. Nel 2013, a causa sia dei conflitti che hanno interessato alcuni paesi membri, sia l'aumento della produzione di greggio americano, la quota della produzione OPEC è scesa mediamente al 43,4% del totale dal 44,6% dell'anno precedente. A proposito di petrolio, carburanti ed energia, oggi il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha firmato il decreto relativo al bonus carburanti, che sblocca 2 annualità di benefici economici per un totale di oltre 170 milioni di euro, rimasti sospesi a seguito di un contenzioso amministrativo riguardante il precedente decreto. Oggi questa notizia è stata data proprio dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico in una nota. È stato così riattivato lo strumento che concede agevolazioni finanziarie ai cittadini delle regioni nelle quali si estraggono idrocarburi. Sempre rimanendo al terreno delle materie prime, il calo dei prezzi dei cereali, dei semi oleosi e dei prodotti caseari, riflesso dell'ampia offerta di questi prodotti sui mercati mondiali, ha spinto l'indice FAO dei prezzi alimentari al livello più basso dal gennaio di quest'anno. Si tratta del quarto mese consecutivo di diminuzione di questo indice, che si basa su un paniere di prodotti alimentari negoziati a livello internazionale. In luglio il valore è stato di 203,9 punti, in calo di circa 4,5 punti rispetto al mese di giugno. Il calo persistente dei prezzi dei prodotti alimentari riflette appunto aspettative migliori per gli approvvigionamenti della stagione attuale e per quelle future. Un dato americano atteso per oggi: la produttività del lavoro americano è aumentata nel secondo trimestre del 2,5%, mentre i costi del lavoro sono saliti dello 0,6%. La notizia è stata data dal Dipartimento del Lavoro statunitense. L'aumento della produttività è superiore alle attese degli analisti. Di nuovo attiva la banca centrale cinese, che va ancora a incrementare, a prendere posizione in una grande società quotata italiana. Si tratta di Generali, e oggi è stato reso noto appunto dalle comunicazioni Consob che la People's Bank of China sarebbe presente nel capitale del Leone di Trieste con una partecipazione poco superiore al 2%. Nei giorni scorsi, ricordiamo, era stata data notizia della presenza della banca centrale cinese, sempre con partecipazioni attorno al 2%, nel capitale di Fiat, Telecom e Prismian, che sono andate ad aggiungersi alle quote già acquistate in Eni ed Enel qualche mese fa. La Cina poi ha registrato a luglio un surplus commerciale record, $47,3 miliardi, a fronte di un rialzo annuo del 14,5% dell'export e un calo dell'1,6% delle importazioni. La Germania invece, ritornando in Europa, ha registrato a giugno un surplus corrente di €15 miliardi, dai €12,2 miliardi del mese precedente. In questo caso si tratta di un dato inferiore alla previsione degli analisti. Un paio di notizie che riguardano l'Italia, poi andiamo al primo approfondimento di oggi, magari ci riteniamo proprio anche per il commento con il nostro primo ospite. Oggi lo spread fra BTP e Bund ha toccato 191 punti base. Come vi raccontavo prima, è stata una giornata ancora piuttosto indecisa sui mercati finanziari azionari. Per quello che riguarda l'economia reale, oggi Banca Italia ha reso noto che i prestiti delle banche italiane a famiglie ed imprese hanno registrato a giugno un calo su base annua del 2,3%. 1%, quindi ancora segno meno, però c'è un rallentamento di questo calo, c'era stato un meno 3,2% a maggio. Infine, un'ultima rilevazione oggi diffusa ancora dalla Confcommercio: fra il 1996 e il 2013 l'Italia, tra i paesi dell'Unione Europea e le 10 principali economie OCSE, è il paese che ha registrato le più basse dinamiche di crescita del PIL pro capite, con appena il 2,1%, il più 2,1%, ben lontano dai principali competitors europei. Pensate che la Francia ha fatto più 18, la Spagna più 24,5%, la Germania più 25,4%. Via l'Italia, vi raccontiamo dopo, niente notizie in breve, adesso andiamo al primo approfondimento di oggi. Buonasera, subito ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che l'altra sera sulla 7, ti ho visto, ti hanno chiamato Massimo. Ahimè, sì, approfittiamone per smentire, ufficializziamo e ricordare il nome. Esatto, infatti. Allora, grazie, buonasera e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie a te. Veniamo a fare un po' un riassunto delle puntate precedenti, come si suol dire. È stata davvero una settimana intensa per l'economia italiana, per l'impegno su questo territorio da parte del Premier Renzi. Oggi quantomeno può dire di potersi andare a fare questo weekend un po' tranquillo, grazie al via libera al nuovo Senato, alle riforme costituzionali. C'è però anche, visto che tutti gli puntano il dito addosso relativamente al fatto che ha dato la precedenza alle riforme costituzionali rispetto ad iniziative più incisive per la ripresa economica, segnaliamo che però oggi ha avuto il via libera anche il provvedimento sulla competitività. Ci sono alcuni punti importanti, in realtà il provvedimento non è lunghissimo, ma è un provvedimento rilevante, Alberto? Beh, è rilevante per il nome, diciamo, perché è chiaro che pone l'accento su una questione molto importante per il nostro paese, il recupero della competitività, che è uno dei nostri mali strutturali. È abbastanza leggero, ci sono due cose rilevanti, l'ACE per l'innovazione d'impresa e la Sabatini, cioè gli incentivi prorogati e ampliati a chi innova e compra macchinari. Queste sono cose importanti. Come sempre però in questo tipo di provvedimenti quello che conta è la fase attuativa, perché si tratta di provvedimenti che poi hanno bisogno di una fase 2, diciamo così, regolamentare, che è poi quella fondamentale, che serve davvero a sbloccare gli effetti concreti delle misure che sono contenute nei diversi provvedimenti legislativi. E come segnalava questa mattina Davide Colombo sul Sole, appunto, l'Italia non brilla mai per essere particolarmente celere nell'attuazione dei provvedimenti che vara. No, purtroppo no, come segnaliamo noi periodicamente con il nostro lavoro di Rating 24, che oramai è diventato un vero e proprio marchio, anche utilizzato giustamente nei dibattiti della politica. La quotidiana proprio all'attività di governo. E purtroppo la dote di decreti non attuati è molto cospicua. Renzi ha tentato di dare un'accelerazione, in qualche modo qualcosa ha fatto, però la mole di provvedimenti che devono dispiegare i loro effetti e quindi rendere concreto poi quello che è stabilito nei diversi provvedimenti di legge primari, diciamo così, è molto molto cospicua. Adesso non dico il numero perché forse lo sbaglio, ma comunque è notevole. Quindi anche su quel decreto competitività di oggi, così come il decreto PA di ieri, c'è questa alea, così come c'è l'alea sul fatto che poi una parte dei provvedimenti che vengono annunciati tutti insieme viene delegata poi appunto a disegni di legge delega. Pensiamo al lavoro, pensiamo alla stessa pubblica amministrazione, ci sono grossi temi che sono affidati a deleghe che avranno a loro volta bisogno di decreti attuativi, decreti delegati, e non sono neanche stati approvati. Certo, quindi insomma il percorso è molto molto accidentato e molto lungo. E per tornare all'idea delle priorità dell'agenda, noi stessi abbiamo scritto in diverse occasioni che appunto il Premier avrebbe fatto meglio probabilmente a porre accento con la stessa emotività su provvedimenti più concreti come lo sblocco degli investimenti e soprattutto il tema del lavoro, nonché un qualcosa di più significativo come piano per abbattere lo stock del debito, che è il problema strutturale del nostro paese macroeconomico che l'Europa ci rimprovera quotidianamente. Quel tipo di inversione dell'agenda non è stato fatto ed è quello che sostanzialmente ci ha rimproverato anche la BCE ieri. Esatto. Con un richiamo che è assolutamente fuori dell'ordinario e che ha un impatto politico evidente e che è un po' anche spaventato i mercati. Abbiamo visto la tensione e lo stress che c'è stato oggi sullo spread, che è tornato repentinamente a quota 192 per poi tornare a quota 180 con interventi che ancora si deve capire da chi sono stati fatti in soccorso del rischio Italia, diciamo così. Quindi Tu dicevi prima che Renzi può... Dici che ci sono stati movimenti di questo tipo, interventi di questo tipo oggi? Sui mercati mi risulta che stiano girando dei rumors che attribuiscono, insomma, interventi di soccorso, diciamo così, di autorità centrali diverse. Insomma, sono da confermare, però ti riferisco ai rumors. Però insomma mercato. È una notizia interessante quella che ci stai dando. Quindi oggi anche questo marginalissimo recupero della borsa è da attribuire evidentemente a questa rete di protezione che qualcuno ha attivato. È probabile. Però per tornare al tranquillo weekend che dovrebbe passare il nostro Premier, non credo che sia sufficiente l'ok al decreto competitività e nemmeno il via libera alla prima delle tante votazioni per il procedimento costituzionale che dovranno Abbiamo avuto anche la firma dell'accordo tra l'Italia ed Etihad. Anche questa è una buona notizia, obiettivamente. Per nulla scontata, direi, oggi. Pesa ancora però questo dato del PIL che ha un po' sorpreso tutti, anche se le aspettative erano negative, ma è risultato più negativo del previsto. Su questo si affastellano poi le preoccupazioni, le forti preoccupazioni internazionali sul quadro geopolitico che si sta sconvolgendo evidentemente e che certo non aiuterà poi la ripresa dell'economia del nostro paese, perché è chiaro che anche il botta e risposta sulle sanzioni alla Russia crea una situazione di congelamento degli scambi internazionali sui quali fino adesso noi abbiamo potuto giocare da player di prima grandezza e con i quali abbiamo fatto la copertura al problema della stagnazione della domanda interna. Quindi questo sarà una cosa preoccupante per il futuro. No, tra l'altro poi anche il dato del PIL dell'altro giorno ci ha detto che la dinamica interna praticamente era zero, ma che le esportazioni stavano già rallentando per effetto del rallentamento dell'economia globale. Questa questione russa naturalmente, se non si sblocca presto, peserà sicuramente anche nel prossimo trimestre del PIL. Altro problema per Renzi, peraltro, anche questo raffreddamento che segnalano molti giornali dei rapporti con Padoan, Alberto. Ma io qui non vorrei entrare questo secondo me non ha delle evidenze concrete certificabili, diciamo così. È evidente il tipo di standing diverso tra i due personaggi, mi sembra questo sia oggettivo. È chiaro che soprattutto la presidenza del semestre europeo italiana e non può avere il linguaggio dei tweet, non è sufficiente per dei partner così agguerriti, anche come sono i nostri partner europei, e così avvertiti peraltro, che vivono di cose concrete, di provvedimenti, di linguaggi istituzionali, anche di liturgie, se le vogliamo chiamare così, ma sono la forma mai come nella sede europea e sostanza. Quindi evidentemente ci vuole qualcosa di più che non un tentativo di accelerare le dinamiche europee e poter ottenere la cosiddetta flessibilità sui conti pubblici affidata a così a battute e poco altro. Ci vuole un paese credibile che appunto riesca a dimostrare quanto prima che sta invertendo le priorità dell'agenda e sta focalizzandosi sui temi concreti che poi sono quelli che tutti i partner ma anche gli operatori dell'economia ci chiedono, a cominciare, ripeto, dal lavoro. Il Jobs Act è stata una e-news prima, come ricordiamo, affidata a poco più che una mail, diciamo così, dove si spiegava qual era la strategia complessiva del Jobs Act. Poi c'è stato un decreto importante messo a punto dal buon senso del ministro Poletti, che ha scardinato alcune rigidità dei contratti a termine. Certo, importante. Quello è stata una cosa molto importante, infatti stanno aumentando i contratti a termine. Però il grosso della deregulation, ma anche della politica attiva, che sarà fondamentale per creare finalmente un sistema che possa consentire a chi lo cerca di trovarlo un lavoro, di avere un curriculum adatto, di poter avere una formazione e un centro dove andare a proporsi. Ecco, tutta questa parte qui è affidata alla delega, che è a maglie larghissime e ha anche obiettivi molto ambiziosi, come il salario minimo, che sarebbe per noi costosissimo e forse nemmeno troppo utile rispetto a un sistema piuttosto consolidato e anche efficiente, diciamo la verità, della contrattazione modello italiano, che con l'ultima riforma che è stata fatta con la firma di tutti ha una sua logica e ha una sua compatibilità economica oramai consolidata. Si tratta di aumentare la produttività e di aumentare ancora di più il salario di secondo livello, diciamo così, svincolandolo da alcune bardature che ancora esistono, ma insomma sarebbe un passo fondamentale. l'idea di fare la scorciatoia sul salario minimo per legge, non so quanto potrebbe essere utile a questo fine, ma comunque questo è uno dei tanti temi della delega che peraltro è affidata alla discussione autunnale, forse un po' in ritardo. Esatto, tra l'altro sta andando anche avanti tutta l'altra iniziativa della Garanzia Giovani per tutta quella partita di ragazzi che non sono impegnati in nessun percorso di formazione, di istruzione, di lavoro in questo momento. C'è in corso la raccolta, diciamo, di adesioni e di iscrizione al programma nazionale, ma ancora non sappiamo bene se questi ragazzi sono al momento convocati da qualcuno, appunto, per poter stabilire che vocazione hanno, che attitudine hanno e dove possono essere, in che maniera formati e collocati. Esatto, poi c'era l'aspettativa di 1 milione di contatti, più o meno siamo intorno a 150.000, esatto, ma di cui quelli operativi sono 4.000, 5.000, 6.000. Il profilo, tra l'altro, che la Garanzia Giovani ambisce a raggiungere è talmente marginale che è molto difficile, appunto. Comunque, che lezione ha impartito questa settimana al Premier? Secondo te, detto che ha scongiurato l'apertura totale per il mese di agosto, appunto, delle aule parlamentari, almeno credo, dal 1 settembre o forse anche l'ultima settimana di agosto, quale sarà la priorità a cui darà, che caratterizzerà, appunto, la sua agenda, visto tutto quello che è successo questa settimana, visto che la comunità finanziaria internazionale ci ha detto chiaramente con Goldman Sachs questa settimana che ci ha rimesso di nuovo sotto osservazione, quindi se non fate quello che dovete fare arriva la tempesta d'autunno. Esatto, questo è molto preoccupante. Il doppio segnale della Goldman Sachs, che ha detto abbandonate i periferici e cominciare dall'Italia, non è un gran bel segnale, è una campana suonata di un countdown molto pericoloso sui mercati, che peraltro già oggi probabilmente ha dato un antipasto con questa infiammata dello spread. Lezioni che impartisce il Premier non saprei, so che sicuramente gli sono state impartite da altri soggetti, a cominciare dalla BCE di ieri, e forse la cosa principale su cui deve focalizzarsi è un piano di investimenti. Da una parte creare le condizioni di sburocratizzazione, di liberalizzazioni per accentuare gli investimenti privati, dall'altro mettere in campo una buona dose di investimenti pubblici per i quali i fondi già ci sono, perché sono quelli europei e quant'altro, da legare a un piano europeo, perché oramai investimenti di tipo pubblico nessun paese riesce a farli da solo che abbiano un minimo di portanza di medio periodo, ma vanno fatti in un quadro europeo, quindi parliamo di grandi infrastrutturazioni che abbiano un respiro continentale, grandi piani di ammodernamento del paese, la digitalizzazione, le reti e quant'altro, insomma l'ammodernamento delle città, perché ci sono i piani per rifare il volto delle città senza creare nuovo cemento, ma semplicemente riqualificando il territorio. Sono cose fondamentali che sono il primo volano vero per far crescere l'economia e far ripartire il PIL e uscire finalmente da questa maledetta recessione che ci sta attanagliando, che crea un clima di sfiducia contro tutto e contro tutti, che diventa un atteggiamento psicologico collettivo e diventa anche poi un atteggiamento psicologico dei singoli, individuale, va in profondità nelle dinamiche sociali e crea quella cosa che va davvero cambiata per far ripartire l'economia. Io credo che al di là di tutto sia un fatto importante quello, ma parte da una nuova stagione di investimenti. Gli investimenti creano occupazione, l'occupazione crea reddito e il reddito crea domanda. Quindi questa è la via. Aspettative anche in Sblocca Italia, immagino. Beh, chiaro, sono lì, ci sono una parte di opere che sicuramente possono dare un buon contributo alla crescita del PIL. Qualche anticipazione del Sole 24 Ore di domani? Beh, siamo su queste vicende dei mercati, l'Italia, la riforma del Senato, chiaramente sono voglio i tre grandi titoli. Vedere se domani titoli. Scrivete il nome di chi ha messo una pezza oggi su questa giornata sui mercati. Vedremo, ci stiamo lavorando. Grazie ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Intanto vi preannuncio che la borsa sta chiudendo a più 0,37%. Guarda, un ascoltatore mi contesta, dice che non ne azzecco una perché ho detto che lo spread è a 190. C'è andato o no? È andato a 192. Ecco, sì. Allora, santo cielo, mamma mia. Andiamo adesso in pausa, tra poco. Ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Più 0,3% sul FTSE MIB oggi in borsa, quindi veramente rimbalzino microscopico. Praticamente Milano tra ieri e l'altro ieri, insomma delle giornate difficili, ha bruciato tutto il guadagno che era riuscito a mettere in campo dall'inizio dell'anno. Adesso vi raccontiamo i temi del giorno. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera, ciao. Buonasera. Rimbalzo, tu lo chiami senza grande convinzione. Oggi ad un certo punto un più 1,3 più 1,4% Milano riusciva a farlo. Poi non ci sono stati né Draghi a parlare, né dati macroeconomici particolarmente rilevanti, quantomeno per l'Italia. È venerdì. Sì, però c'è stata la notizia nel pomeriggio che sono iniziati i raid aerei in Iraq, e è stata peraltro annunciata dal Pentagono su Twitter, e quindi questo ha creato un certo disagio, soprattutto in un momento in cui le tensioni geopolitiche internazionali non lasciano affatto tranquilli gli investitori, con le tensioni soprattutto in Russia e anche nella striscia di Gaza. Mm-hmm. E quindi è chiaro che oggi il mercato ha guardato anche a questo, ed essendo, ribadisco, appunto venerdì, forse hanno preferito molti operatori dire: sai che c'è, liberiamoci un po' di posizioni e poi vediamo lunedì come tira l'aria internazionale soprattutto. Allora, questo caso del giorno mi interessa molto, e gli ascoltatori ovviamente oggi non mancano di prendermi in giro anche su questo, perché mi stupisce questo comportamento della Popolare dell'Emilia Romagna. Ieri ha diffuso i conti, meno 13,7% ha fatto, un ascoltatore molto preciso si ricorda appunto la percentuale di perdita, oggi più 11%. Che è successo? La trimestrale è sempre quella. Come può cambiare così radicalmente l'umore di un operatore sulla medesima banca nel giro di 3 ore? Ma sì, innanzitutto sono tutti concordi nel ritenere quello che peraltro noi abbiamo detto in diretta ieri, che la reazione era stata un po' eccessiva, soprattutto perché tutto sommato i conti erano migliorati con l'utile nel semestre, che è stato pari a 42,5 milioni e anche i ricavi di intermediati, il margine di intermediazione è salito. Ovviamente c'era stato un certo timore, soprattutto per quelli che erano, diciamo, le sofferenze della società, cioè gli analisti non avevano visto chiaro su alcune voci del bilancio, ma nel corso della conference call l'amministratore delegato della banca ha assolutamente rassicurato. In più c'è stato l'intervento anche della Consob, che ha disposto il divieto temporaneo delle vendite allo scoperto, e tutto questo ovviamente ha fatto recuperare terreno alle azioni. Poi ricordiamo sempre che ovviamente si tratta di un mercato agostano, quindi la volatilità è senza dubbio alle stelle. A proposito di proibizione di vendite allo scoperto, provvedimento che oggi ha riguardato Monte dei Paschi. Sì, Monte dei Paschi, perché in questo caso i conti non sono affatto piaciuti, sono stati comunicati ieri a borsa chiusa. La banca ha perso 353 milioni nei primi 3 mesi nei primi 6 mesi, scusate, del 2014, ben oltre le attese degli analisti. Poi l'amministratore delegato Fabrizio Viola ha cercato di gettare acqua sul fuoco, ricordando che comunque l'istituto è alle prese con un periodo difficile, ma soprattutto anche con le difficoltà dell'economia italiana. Comunque gli investitori non sono rimasti convinti dalle sue parole, visto che il titolo è arrivato a perdere anche oltre l'8% di calo con cui alla fine ha chiuso. Tra l'altro non prevedo nulla di sereno per le vabbè, adesso gli ascoltatori diranno: cosa prevedi tu che non azzecchi niente? Nel senso che, essendoci in vista gli stress test della BCE, sarà un autunno molto complesso per le banche, perché saranno sottoposte ogni giorno a giudizio molto severo della comunità finanziaria internazionale, per cui magari giornate come questa ne vedremo ancora tante. Popolare di Milano, per ritornare ai titoli con il segno più 6,60%, effetto Popolare dell'Emilia Romagna? Sì, oggi ci sono, no, più che altro. Ah, già, anche i conti, tra l'altro. Caso, sì. BPM e UBI invece sono state premiate per i conti, che sono buoni. In particolare la BPM ha vantato un utile in forte crescita, addirittura dell'81% a 191 milioni. Ma perché, ricordiamo, ha incassato i soldi derivanti dalla cessione della propria quota grazie alla quotazione di Anima, su cui aveva una partecipazione. Comunque i conti sono evidentemente piaciuti al mercato, i titoli già salivano e poi sono esplosi dopo la comunicazione della semestrale. Per quanto riguarda UBI, anche UBI è stata premiata sempre sull'effetto della semestrale, Il semestre si è chiuso infatti con proventi operativi in crescita del 5,1% a 1,7 miliardi, è andato un po' bene tutto il bilancio e soprattutto l'utile è praticamente raddoppiato a 106,2 milioni. I titoli così sono stati premiati con un progresso del 3%. Andiamo poi agli altri titoli che hanno avuto una buona giornata. Fiat più 3,36%, qua procede ancora la saga, il monitoraggio del titolo Eleonora per la questione dell'esercizio del diritto di recesso dall'operazione Chrysler. Sì, c'è un po' la conta alla rovescia, si cerca di capire chi è che aderirà al recesso. Certo, rispetto ai prezzi di oggi sarebbe conveniente perché chi vuole recedere dall'operazione di fusione incassa 7,7 euro, un euro in più rispetto ai corsi di oggi che sono 6,7 euro. D'altra parte va ricordato che se i recessi poi complessivamente superano i 500 milioni di euro l'operazione non va in porto e quindi a nessuno verrà dato ovviamente il recesso. Evidentemente il mercato ci sta riflettendo, adesso ha iniziato a scommettere che probabilmente l'operazione andrà avanti. Oggi è andata bene anche Exor, la holding di casa Fiat, più 1,44%. Altri rialzi significativi: Unipolsai più 2,22%, G-Tech più 1,94%, Finmeccanica più 1,79%, Mediobanca più 1,78%, bene anche il Banco Popolare più 1,72%, Saipem più 1,69%. Andiamo a Telecom più 1,60%, settimana calda anche per questo gruppo. Sì, Telecom è ovviamente sotto la lente e rimarrà sotto la lente fino a settembre probabilmente, perché pare che l'amministratore delegato Marco Patuano stia studiando contromosse in Brasile e voglia comunque andare avanti nel piano di integrazione tra la controllata TIM Brasil e GVT, la società di telefonia fissa controllata da Vivendi. Ovviamente la palla a quel punto spetta comunque a Vivendi, che dovrà decidere se sarà migliore l'offerta che metterà in campo Telecom Italia o piuttosto l'offerta che è già stata inoltrata nei giorni scorsi da Telefonica. Ricordiamo che entro il 3 settembre comunque Vivendi dovrà dare una risposta a Telefonica. Andiamo agli altri titoli con rialzi interessanti: Atlantia, l'ex autostrade più 1,34%, Tenaris più 1,33%, Luxottica più 1,32%, Mediaset in rialzo di oltre un punto con Intesa San Paolo, poi mezzo punto di rialzo per Moncler, Enel Green Power più 0,58%, Case New Holland Industrial più 0,56%. Pian piano arriviamo ai segni meno. A far peggio di tutti, oltre a Monte dei Paschi, c'è stata TOTS meno 7%, peraltro Diego Della Valle, lo ricorderai, ieri è iniziato a parlare proprio mentre eravamo in diretta, Eleonora. Sì, esatto, in questo caso è la semestrale che non è piaciuta al mercato. Del resto il fatturato nei primi sei mesi dell'azienda di moda è sceso del 2,7%, ma soprattutto l'utile operativo si è contratto del 25% a 81 milioni. E quindi c'è stata un po' una corsa delle principali banche d'affari o dei principali broker a rivedere al ribasso le stime e a tagliare i propri giudizi. Abbiamo Mediolanum tra gli altri titoli peggiori, meno 1,79% anche per Mediolanum. Oggi mi pare che qualche nota sia stata diffusa. Sì, oggi infatti per quanto riguarda Mediolanum è stata diffusa la raccolta, come ieri era stata diffusa di Azimut, però in questo caso non è stata festeggiata dal mercato, che anzi ha punito le azioni con un calo, appunto come hai notato tu, quasi del 2%. Comunque la raccolta netta a luglio è stata pari a 483 milioni e da inizio anno la Mediolanum ha raccolto oltre 2,3 miliardi di euro. Tra l'altro queste società da risparmio gestito stanno macinando raccolta record su record mese dopo mese, per cui qualche volta veramente è molto interessante fare un po' un commento sul risparmio degli italiani, perché non si capisce come facciano data la crisi e che cosa. È evidente che molte banche hanno cominciato una strategia commerciale diversa, mentre prima suggerivano di disinvestire dai fondi di investimento e acquistare obbligazioni bancarie, adesso c'è un po' un'inversione di tendenza, però le raccolte sono veramente incredibili. E anche ci metto insieme per Banca Generali, che è un'altra società leader in questo comparto. Andrei a raccontare anche fra i titoli minori il nuovo tonfo di Zucchi. Qua Buffon non sarà tanto contento, Eleonora. No, Buffon in questo caso sembra si sia fatto un po' un autogol, ricordiamo che è il principale azionista di Zucchi, ma proprio ieri è uscita la notizia che KPMG ING, la società di revisione dei bilanci, non ha certificato la semestrale e quindi questo ha creato panico oltre che il tracollo delle azioni. E ha fatto meno 18% anche il titolo della Roma Calcio, oggi ne parlavamo proprio ieri. Il migliore in assoluto invece in borsa è stato quello della Banca Popolare, appunto dell'Emilia Romagna, lo dicevamo, e Digital Magic, se fra i titoli minori, più 9%. Eleonora, abbiamo terminato, altri casi da segnalare? Ma no, è un mercato più che altro di agosto, quindi direi agli ascoltatori di stare molto attenti se decidono di comprare o di vendere. Intanto vedo l'euro che si è riportato sopra quota 1,34 a 1,3415 sul dollaro. Grazie mille ad Eleonora Micheli di Radio Cor, buona serata. Buona serata e buon weekend. Concludo la lista della spesa, visto che molti ascoltatori la apprezzano sempre. Segnaliamo Campari che ha chiuso sulla parità, meno 0,05%, Eni, Snam meno 0,19%, Unicredit meno 0,27%, Terna meno 0,38%, Salvatore Ferragamo meno 0,6%, meno 0,8% per STM e Autogrill, ribasso di un punto anche per World Duty Free, Prismian, Enel e, come dicevamo, meno 1,5% per Azimut. Direi che per la borsa è tutto, adesso è tempo di andare a sentire cosa sta accadendo sulle strade italiane. Allora, molti avranno anche smarrito il bagaglio in questi giorni per la protesta, per lo sciopero bianco, per la contestazione che è stata ribattezzata in settimana della valigia selvaggia, appunto, ma non è riuscito, questa forma di protesta comunque non ha impedito oggi finalmente la firma dell'accordo definitivo tra Alitalia ed Etihad. Peraltro è proprio terminata neanche una quarantina di minuti fa la conferenza stampa congiunta che tutti i protagonisti di questa integrazione, appunto, hanno tenuto: l'amministratore delegato di Alitalia Gabriele Del Torchio, il CEO di Etihad James Hogan, c'era anche il chairman di CAI Roberto Collanino. Insomma, è stato firmato oggi finalmente il contratto dell'accordo fra le due compagnie, un accordo che comunque ha ancora delle subordinazioni perché deve essere approvato anche da parte delle autorità europee. Nella mattinata l'assemblea degli azionisti di Alitalia aveva approvato l'accordo e contestualmente anche l'aumento di capitale da 300 milioni di euro. L'accordo finale è previsto al termine del vaglio dell'operazione da parte dell'antitrust europeo, si parla quindi della fine dell'anno. Intanto buonasera Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Gianni, allora, prima di sentire alcuni brani tratti dalla conferenza stampa volevo togliermi una curiosità, perché ad un certo punto Roberto Colalino ha raccontato che quando si è avventurato nel 2006 nell'impresa, appunto, di salvataggio di Alitalia, disse che quando gli venne l'idea, lo ha raccontato proprio poco fa in conferenza stampa, andò a Mantova a cena con un grande giornalista italiano, appunto non ha voluto fare il nome, che, come dire, aveva anche tentato un po' di farlo desistere da questa intenzione, di scoraggiarlo dall'operazione. Noi subito in redazione ci siamo chiesti: ma sarà andato a cena con Gianni Dragoni? Non... sembra una battuta. Non è una battuta, se eri in conferenza stampa Colanino l'ha raccontato. Sì, sì. No, era tua, mi sembra una battuta. Sì, sì, ho sentito, Colanino l'ha detto. Non eri tu. Credo, ho avuto qualche idea, ma non so. Io ho pensato a Ferruccio De Bortoli, che salutiamo peraltro, ma non so, o Enrico Mentana, perché non so chi altro potesse andare a cena. O qualcuno di Repubblica, forse. Ah, no, ma... perché lui fece una grande intervista a Repubblica in quei giorni, peraltro al direttore di Repubblica, Ezio Mauro. Era allora, Mauro ancora, sì, era già Mauro. E per questo. Molto bene, andiamo alla ciccia adesso dopo il nostro gossip. Allora, vi faccio sentire intanto un passaggio delle dichiarazioni di Gabriele Del Torto, l'amministratore delegato di Alitalia. Ha detto, ha ringraziato tutti gli attori che hanno reso possibile, appunto, la conclusione di questa trattativa. Ha detto: è un accordo importante anche per il paese. Sentiamolo. Questo è un momento molto importante e io in queste sere ho cominciato a pensare un po' a quello che è successo negli ultimi 16 mesi. Però sono ritornato a quando mi proposero di prendere la guida di Alitalia 16 mesi fa. Il mio obiettivo era quello di mettere in sicurezza la gente, era quello di dare un futuro solido e concreto all'Alitalia. L'Alitalia rinasce con la CAI, rinasce quando nel 2009 viene fondata l'Italia CAI. E in quel periodo e in quegli anni è stato fatto un lavoro davvero ammirevole. Però nel frattempo anche le condizioni del mercato sono cambiate. L'internazionalizzazione si è fatta sempre più corrompente. Quello che poteva apparire un mercato in qualche modo protetto, il mercato domestico, è diventato un mercato molto aperto. E allora è diventato evidente a noi che l'unica maniera per affrontare il futuro e per affrontare un futuro di successo per chi ci lavora, per gli azionisti che ci hanno investito, per tutta la collettività italiana, era quella di cercare un'alleanza internazionale. E oggi abbiamo appena firmato l'accordo tra di noi, un accordo rilevante, ma è un accordo che vuol dire molto per l'Italia, ma vuol dire molto anche per tutta la collettività italiana, per noi, per la nostra economia. Ringraziamo anche le persone che dovranno lasciare Alitalia. Questo è stato un passaggio anche breve ma molto importante delle dichiarazioni di Gabriele Del Torchio, che appunto dichiarazioni che cadono in una settimana che è stata cruciale da questo punto di vista per la ex compagnia di bandiera, data la contestazione che abbiamo ricordato all'inizio. Vi faccio sentire anche questo passaggio, poi andiamo al commento con Gianni Dragoni. Devo ringraziare i sindacati. Sapete, abbiamo fatto un comunicato stampa stamattina, abbiamo annunciato che abbiamo raggiunto l'unanimità da parte di tutte le organizzazioni sindacali, da parte di tutti i sindacati, nessuno escluso, e da parte anche delle associazioni di categoria, dei piloti, degli assistenti di volo. Beh, io credo che sia un grande risultato, un risultato che vuol dire che tutti credono in questa nuova avventura e tutti si sono impegnati per realizzarla. Voglio ringraziare le donne, gli uomini, dirigenti, operai, assistenti di volo, piloti, che hanno lavorato molto in questo periodo e hanno reso possibile quello che oggi stiamo qua parlando insieme. E voglio anche ringraziare tutte le persone che, ahimè, e questo ci dispiace molto, dovranno lasciare l'Alitalia, saranno destinate ad altri impieghi. Ci dispiace, però abbiamo la consapevolezza che per creare un futuro di sviluppo, per creare un futuro di opportunità, alle volte sono necessarie anche delle decisioni dolorose, ma lo facciamo per creare un futuro. Allora Gianni, qual è il nuovo protagonista dei cieli mondiali che nasce con l'accordo firmato oggi e soprattutto cambierà anche la denominazione degli aerei che partiranno dall'Italia? Si chiamerà in maniera diversa secondo te oppure rimane tutto all'Italia Etihad? Ci sarà anche, come dire, qualche novità estetica a tuo avviso? Il protagonista è indubbiamente James Hogan, il manager australiano che era amministratore delegato di Etihad e che chi l'avesse visto oggi, rispetto ad altre volte, io l'ho visto tante altre volte, era veramente uno che non sta nella pelle, quindi sfoggiava una cravatta lilla che era tutto un programma, tutto sorridente, di solito è burbero, sfuggente, invece è estremamente disponibile. È lui che ha voluto ad ogni costo fare questa conferenza stampa e quindi evidentemente è convinto di aver fatto un affare, un'operazione vantaggiosa. È possibile che questa volta riesca, perché intanto ha ottenuto delle condizioni molto favorevoli. La decisione dolorosa di lasciare fuori più di 2200 lavoratori dalla nuova Alitalia, quindi questa è una riduzione dei costi. Vediamo poi se sarà, come andranno anche i ricavi, perché le aziende, se si guarda solo i costi, muoiono, bisogna sviluppare i ricavi. E poi ha convinto le banche a ridurre di quasi 600 milioni di euro i debiti dell'Alitalia, quindi insomma tutta una serie di condizioni. Ha il 49%, è chiaro che avrà il comando, anche se formalmente insistono a dire che non hanno il controllo. Questo è un tema che verrà valutato dall'Unione Europea, è un tema, diciamo, non sarà così semplice passare questo controllo. Quanto agli aerei, è allo studio una nuova divisa, un nuovo abito, quella che si chiama livrea anche per l'Alitalia, una livrea che dovrebbe essere sempre tricolore. Tra l'altro facciamo notare, se uno vede le code degli aerei di Etihad, il tricolore bianco, rosso e verde più nero è anche nella bandiera degli Emirati Arabi Uniti, quindi diciamo che in questo forse non si devono neanche sforzare molto. Ma si chiamerà ancora Alitalia, la compagnia italiana, la nuova Alitalia, ma dovrebbe avere il nome, ci sarà Alitalia sempre, quindi non cambierà il nome degli aerei. Chissà se non cambierà invece il personale di bordo, cioè ha fatto una domanda che chiaramente sicuramente è chiave, cioè e oggi non è stato chiarito questo punto, ma credo non è stato chiarito perché probabilmente la risposta è che questo sviluppo del traffico, delle rotte, dei voli che è previsto per il lungo raggio dell'Italia, mentre ci sarà una riduzione dei voli più brevi, a breve e medio raggio, nazionali e forse anche qualcuno dentro l'Europa, lo sviluppo non è stato chiarito, non ha risposto alla domanda, Hogan, se gli aerei sarà l'Alitalia a comprarli o se sarà Etihad, che ha una flotta molto potente e ha più di 200 aerei già ordinati, cioè 200 aerei ancora già diciamo acquistati ma che devono ancora arrivare, se sarà Etihad a fornirli. Ovviamente se sarà Etihad sarà l'Italia a dover pagare Etihad l'utilizzo, ma potrebbe anche fornirli con tanto di equipaggio, esiste questa formula, cioè Etihad potrebbe usare i diritti di volo del partner all'Italia per volare per esempio anche dall'Italia agli Stati Uniti, cioè questa è una possibilità, quindi se dovesse essere Etihad a farlo, questo ripeto non è stato chiarito, quindi è un'occasione per chiarirlo, non è stato, ha detto Hogan, sarà il manager a decidere, noi con tutte le nostre compagnie di cui abbiamo una partecipazione, come c'è la Air Berlin, la Jet Airways in India, che sono le più grosse in cui Etihad è entrata, abbiamo diciamo un coordinamento, abbiamo in tutto 700 aerei, li possiamo anche spostare un po', quindi io credo che un po' dei voli che si chiameranno l'Italia forse li farà Etihad e vedremo un equipaggio emiratino. Ci saranno scelte difficili da fare, d'altronde Hogan lo ha detto pur nel suo entusiasmo oggi nel corso appunto della conferenza stampa a cui poi ha fatto eco ancora. Richiamo Colaninno perché oggi veramente secondo me è stato l'intervento un po' più curioso a prescindere dalla questione della cena, perché si è molto soffermato su questa frase "is difficult but not impossible". Ecco, quali saranno oltre a quelle che hai elencato Gianni, le altre scelte particolarmente difficili da fare secondo te, visto che Del Torchio ha ricordato come tutte le sigle sindacali hanno dato appunto il loro contributo costruttivo affinché si arrivasse all'intesa di oggi, in che modo potrebbero risvegliarsi i sindacati nei prossimi giorni? C'è questa agitazione che non è poi un'agitazione di tipo sindacale, anche se parla sindacale, diciamo selvaggia, ha già rovinato le vacanze a molte persone, e oggi dicono che la situazione non è peggiorata come paventavano ieri, però la situazione non è certo regolare, quindi c'è questa situazione a Fiumicino diciamo di agitazione selvaggia, scorretta, perché non avviene nei binari di una protesta, anche se diciamo ci sono delle persone colpite che perdono il lavoro, quindi diciamo io valuterei anche il contesto. Sì, sì, no, ma questo lo abbiamo anche detto nei giorni scorsi con i sindacati. Bene. A parte allora diciamo questo passaggio, io credo che le difficoltà di cui ha parlato con realismo Colaninno, che diciamo negli interventi in pubblico è sempre efficace, trovo che lo sia stato di meno come presidente dell'Alitalia, dei Capitani Coraggiosi, che in 5 anni appunto è fallita di nuovo e ha perso in media più di quello che perdeva. Sì, è vero, infatti pubblica. Oggi proprio come se fosse il grande vincitore di tutta questa partita, in realtà ecco ricordiamoci cosa è successo negli ultimi anni. In realtà oggi c'è un vincitore, Hogan, e uno che si è arreso, che è Colaninno, come diciamo, però tutto sommato ha sfoderato una certa dignità. Dignità, ha detto anche che lui metterà dei soldi, ha detto pochi, chiaramente pochi, si tratta sempre di vedere il punto di vista, pochi rispetto al guadagno che pensa di fare, lo diceva anche nel 2008-2009 quando è partita la CAI, e quei soldi e quel partner Air France non sono andati bene, o quantomeno l'operazione non è andata a buon fine, quindi credo che quando Colaninno dice è difficile ma non impossibile, pensi all'esperienza di questi 5 anni che erano partiti evidentemente quasi convinti i soci privati della CAI di farcela, di guadagnare, e poi in realtà almeno come compagnia all'Italia, io penso che alcuni di loro abbiano guadagnato su altri. Certo, sto chiudendo Gianni, il risveglio sindacale come potrebbe avvenire in 20 secondi? Ma il risveglio sindacale, intanto adesso vediamo che Etihad entrerà, ha detto che a settembre parlerà al personale, Etihad vuole rivoltare la compagnia, cambiare tante cose, io mi aspetto che ci saranno anche delle situazioni di lavoro, di relazioni che potranno provocare delle reazioni. Mm-hmm. viceversa potrebbero anche invece essere più soddisfatti se le cose funzionano. Non è detto che sia tutto negativo. Infatti, vediamo. Grazie a Gianni Dragoni, buona serata. Buona serata, ciao. Io vi saluto, ringrazio Fabio Cantadori per l'assistenza tecnica, Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione. Da lunedì con voi a Focus Economia, Simone Spezia. A tutti, buon fine settimana.